Giuseppe Cruciani. Si guadagna da vivere a suon di querele, insulti, racconti ogni giorno alla Zanzara di Radio 24. È famoso per essere il Paganini della TV, la sua sublime Radio Belva ha ballato una sola notte. Il suo peggior nemico è chi mette in dubbio il suo curriculum di sciupa femmine. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Deputato De Rosa, rivolgendosi alle deputate del PD, ha pronunciato una frase che a me spiace ripetere questa sera, perché penso che urterò la sensibilità, e me ne scuso già dall'inizio, delle famiglie, delle donne che ci guardano e di chi appunto ascolterà le mie parole, ma c'è stata rivolta questa frase: le donne del PD sono arrivate qui soltanto perché capaci di fare pompini. Allora, amici miei, siccome tutto questo è avvenuto ieri sera con Alessandra Moretti del Partito Democratico, che avete sentito pronunciare la parola pompino alle 20:38 circa, sì, sulla 7, prima serata, non ci potete più rompere i coglioni. Cioè, è stata sdoganata pure questa parola. Non è esattamente così. Sì, come no? È esattamente così. È stata sdoganata questa parola. Ma no, ma lì era dovere di cronaca. Ma non è solo la cronaca. Diciamo che è entrata nel linguaggio comune. E comunque, non è che uno può andare in tribunale perché avrebbe rivolto questa parola, diciamo la verità, non riduciamo tutto ai tribunali, alle querele. No, riduciamo un po' tutto anche qui ai tribunali, alle querele, così si svegliano un po'. Cioè, secondo te è giusto che il grillino risponda davanti a un tribunale per una frase, semmai la dovesse averla pronunciata, per ingiurie? Secondo Vuoi te? Vuoi che te la dica come te la direbbe il vecchio Parenzo che hai conosciuto 3 anni fa? Dimmi. Sì, virgola, cazzo. No, il vecchio Parenzo, dovrebbe essere il Parenzo di oggi, no il vecchio Parenzo. No, il Parenzo è quello che tu dicevi, che combatteva come un leone nella savana della politica. Cioè, tu adesso immagina la scena, no? A un certo punto entra in tribunale il signor De Rosa. Di più, avviso di garanzia. No, di più, 2 poliziotti vanno lì. Ma l'hanno già fatto, cioè già indagato. Benissimo. Ma come benissimo? Benissimo. E voglio anche il plastico da Vespa. Di cosa, scusa? Il plastico di che? Della... Del pompino? No, del pompino, del luogo. Voglio la ricostruzione dell'emiciclo con tutti i personaggi, e viene ricostruito l'accaduto. Allora, De Rosa, che è quello che avrebbe detto la frase: voi donne del PD siete qui perché siete brave solo a fare i pompini, devono pagare fino all'ultimo. Ma stai tranquillo, in politica, vabbè, insomma, Volcano. Dice che ha pronunciato questa frase non diretto alle donne del PD ma rivolto in generale, e ha parlato di sesso orale. Beh, io non ci credo che abbia pronunciato la parola sesso orale, però Io ho detto che in Parlamento tanti entrano o perché conoscono qualcuno o perché fanno assessorare con qualcuno. E mi dite se qualche italiano non lo pensa adesso. No, adesso. Che lui diventa. Questi qua si sentono interpreti degli italiani. Esatto. No? Cioè, non è che tutti pensiamo che lì sono. Che in politica gli altri, tranne i grillini, sono in Parlamento perché conoscono qualcuno o perché fanno le pompe. No, non lo pensiamo. Si è capito il concetto, non occorre ripeterlo, diciamo così, per tutta la giornata. Lo ripeto, perché c'è una denuncia a causa di pompino, è evidente. Comunque, De Rosa dice: io non mi sono mai rivolto alle deputate del PD. Io non mi sono mai rivolto alle deputate del PD. Ho subito degli insulti e un'aggressione dai deputati del PD che erano rimasti in commissione. Il problema è che è 2 giorni che sento parlare in TV di cose che non sanno. Cioè, riportano solamente quello che hanno detto alcune deputate del PD, che nascondendosi dietro al femminismo cercano di creare una battaglia di classe. si nascondono dietro il femminismo. Vabbè, Laura Ravetto, che ne ha sentite di tutti i colori di Forza Italia in questi anni, dice giustamente: vabbè, benvenute alle deputate del PD. E c'è da dire anche una cosa su questo. Cioè, in tutti questi anni, donne vicine, donne, adesso te lo faccio ascoltare, donne vicine a Berlusconi, ragazze vicine a Berlusconi, sono state bollate come mignotte, prostitute, come no, pompinare, eccetera. Non che lì si è soltanto citato. No, aspetta, stai tranquillo, stai uguale, comunque sono state tacciate direttamente o indirettamente. Se vuoi c'ho veramente un elenco sterminato di archivio, stai tranquillo. Sono state tacciate di essere delle pompinate, di essere delle mignotte, delle prostitute, e nessuna è mai stata difesa. Ravetto. È l'unico. Le deputate del PD, Alessandra Moretti, pure 13 querele. Sì. Vabbè, cosa volevo dire? Benvenute? Nel senso che insomma, noi abbiamo subito degli episodi, a mio avviso, vergognosi in passato. Adesso, quando dice noi, speriamo, dice le deputate di Forza Italia. Abbiamo sopportato di tutto in quanto a dichiarazioni, relazioni. E la banana, e la banana, è l'unico. Oh, a proposito di dittatura, golpe, dittatura del governo, facciamo risentire qualche parola del professor Paolo Becchi, considerato l'ideologo grillino, anche se lui nega questo epiteto, questo soprannome, questo ruolo, che a noi ha detto che si sente come durante il fascismo. Vi sentite un po' in guerra come durante il fascismo o no? Sì, sì. Ci resta soltanto una cosa da valutare. Dopo la scomparsa di Matteotti ci fu l'Aventino. E qui è scomparsa la democrazia in Italia, bisognerebbe ritornare all'Aventino. E poi se ne fottono della governabilità. Sentiamo Becchi. Lo sai dove me la metterei la governabilità, la stabilità? Dove? Ecco. Dove? Dove? Il punto della mia anatomia del dolore, lo metterei lì. La rappresentanza è democratica ed è la cosa più importante in un paese democratico. Oh, devo dire due paroline anche sulla signora Boldrini, la signora Boldrini, che oggi in una lunghissima e pensosa intervista del Corriere della Sera cita nemmeno una volta la vicenda D'Ambrosio, per condannare D'Ambrosio, nemmeno una volta. Beh, lì ci sarà un'inchiesta Nemmeno interna. Una volta lo cita, nemmeno una volta. Fosse stato un deputato dei 5 Stelle o di altri partiti, lo avrebbero distrutto, diciamo la verità, lo avrebbero massacrato. E questo va detto? Poi scusa, non ho capito perché la Boldrini dice che la richiesta di impeachment è infondata e inaudita. Ma chi è lei per giudicare? Il presidente della Camera. Siccome ma lei è la terza carica dello Stato. Ma non, perché deve dare un giudizio lei se una richiesta è infondata? No! Il presidente della Camera! C'è una richiesta di impeachment che per me è più infondata. Scusami, di quanto. Chi l'ha deciso? Il costituzionalista Cruciani? Ma non mi interessa. È una che odia i 5 Stelle. Non sopporta i 5 Stelle. Questo è evidente. Ritengo che sia assolutamente infondata, inaudita, che tenta proprio di gettare fango sulle istituzioni, quindi da respingere, e tutta la mia solidarietà al presidente Giorgio Napolitano. Poi dice: o tagliavo il dibattito, gli italiani pagavano l'IMU. Adesso io voglio dire una cosa, no? Ma che gliene frega la Boldrini se gli italiani pagano o no l'IMU? Beh, vabbè, no, ma è una decisione politica quella lì. È una cosa politica. Cioè, se il dibattito è stato interrotto solo per questo, è una decisione politica. Allora mi viene da dare ragione ai grillini da questo punto di vista. Sull'interruzione no, di un dice... No, lo dice. Lei senti. Dice da presidente. Io ma non me ne frega niente. Pagare la discussione c'è stata. No, e non è ora questo. Si vota. Non è questo. Sì. Ma lascia perdere. Ma senti quello che dice invece di prendere parte sempre. Io ho fatto la cosa giusta, perché o tagliavo quel dibattito o oggi gli italiani avrebbero dovuto pagare la seconda rata dell'IMU. Poi ci sono esagerazioni clamorose, sentiamo qui Boccia che dice metodi nazifascisti del Movimento 5 Stelle. Adesso, per carità, quel dibattista lì, poi vi faremo ascoltare qualcosa su un suo parente, intervenuto alla Zanzara diversi anni fa. Comunque, Boccia, sentiamo. La resistenza consentì agli italiani di sconfiggere il nazifascismo, che utilizzava metodi molto simili a quelli che sta utilizzando il Movimento 5 Stelle in questi giorni, nel senso che impediva agli altri di parlare. Ma non si può parlare di metodi nazifascisti, dai. Nazi, dai, mezzi nazi, no. Ma smettiamola con questa. Fascisti, ma stanno però in Parlamento a fare casino come hanno fatto tanti. Su, dai, metodi nazi. Facciamo il nazismo e il fascismo è un'altra cosa. Se vogliamo, molto più nobile dei grillini, no? Ma sai chi è diventato super grillino? Beh, amico mio, il professore, il nostro professore, Carlo! Carlo, dove sei? Eccomi, arrivo di corsa, volando anzi. Come Taormina? È diventato super grillino, ma stiamo scherzando, il professor Taormina. Ma certo! Ma come grillino? Ma che cosa vuol dire? Spiegagli, Carlo, spiegagli che stanno facendo un'opera meritoria, secondo te. Ma secondo me sì, però la devono portare a compimento, perché sennò diventa una velleità e basta. Invece, cioè, a compimento che vuol dire, scusa? A compimento, questo Stato deve essere abbattuto. Abbattuto? Naturalmente, come un terrorista. Naturalmente con metodi legali, e i metodi legali ci sono, perché per esempio bastava che quelle 5 ore passassero sul decreto legge e sarebbe saltata una cosa importante. Bisogna insistere e farlo in continuazione, creare una situazione sistematicamente di casino, di casino. Sì. Non di casino, non solo di casino, proprio di paralisi, ecco. Bisogna paralizzare. Ma come bisogna paralizzare, professore? Ma tu sei una persona seria. No, basta, siamo arrivati a dei livelli di intollerabilità assolutamente mai conosciuti. Ma scusa, l'impeachment ti fa godere l'impeachment, no? L'impeachment è operazione mia, se mi permettete. Ma come tua? Perché Grillo, infatti il senatore Crimi mi ha chiamato ieri proprio per chiedermi diciamo un aiuto. Ma veramente? Quella, certamente, sto dicendo. Quindi una cosa sei vera. Tu dietro la scrittura di quella dell'impeachment? No, non ci sono io dietro, no, non cominciare a dire. Ecco chi è il pupazzo. Parenzo, perché non voglio. Ecco il pupazzo. Questioni. Allora, ecco, le cose stanno in questi modi. In questi termini, come ben ricordate, qualche no, mese ma fa, aspetta, fammi prima capire questa cosa qua. Ti ha chiamato Crimi allora? Mi ha chiamato Crimi perché voleva sapere dove stavano gli atti che avevo io presentato sia al Comitato Parlamentare. Comitato Parlamentare di che? Per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Vabbè, voleva sia sapere. Sia alla Procura della Repubblica, attenzione. E attenzione, la Procura della Repubblica mandò la mia denuncia per competenza, non perché fosse infondata, ma per competenza al Comitato parlamentare, dove io avevo mandato un'altra copia. Ma perché io non ho capito una cosa? Perché non hanno chiesto la tua consulenza sull'impeachment? No, perché io c'era questo atto che era ben conosciuto, l'ho messo anche su Facebook in modo tale che tutti lo potessero conoscere, riguarda esclusivamente il problema della trattativa Stato-mafia. Ma per te sulla trattativa è giusto metterlo sotto accusa, Napolitano? La trattativa secondo me diciamo è l'epicentro, cioè non la trattativa, l'interferenza sulla magistratura per spiare il corso delle indagini e delle investigazioni sulla trattativa è certamente la cosa però, più importante. Professore, ma secondo te veramente va messo sotto impeachment, sotto accusa Napolitano? Ah, ma secondo me da un pezzo bisognava farlo. Prima di tutto per questa operazione che è stata veramente indegna. Quale? Ieri sera io ho assistito, ma già conoscevo tutto, alla trasmissione di Santoro, dove venivano mandati in onda i colloqui tra D'Ambrosio e Mancino, ed è veramente una cosa vergognosa, ma io d'altra parte sto dicendo delle cose che ho documentalmente prodotto nelle sedi competenti. Comunque, naturalmente, siccome l'esposto è andato in mano ad uno di Forza Italia, esattamente all'attuale presidente della commissione affari costituzionali, Sisto, che ha preso e ha cestinato subito, adesso voglio vedere che fanno. Sarà gay, Sisto. Sisto sarà gay? No, non è gay, è solo che si fa i cazzi suoi, tutto qua, niente di più, niente di meno. Che c'è, Parenzo? No, non ho capito, che Taormina, ovunque c'è un po' di... Non è che ti fai candidare coi grillini. Scusate, come si fa a dire che un Presidente della Repubblica che coinvolge il Procuratore Generale della Cassazione, che cerca l'attuale Presidente del Senato, allora Procuratore Nazionale Antimafia... Vabbè, professore, ma dove stai che non si sente niente? Professore? Ma che c'hai a sto telefono? Nel bunker. Ma c'hai i servizi sempre che i servizi che ti controllano. Ma chi se ne frega, me ne frega niente. Sei pieno di servizi che ti controllano. L'importante è avere le mani pulite, la coscienza a posto. È l'arcigay che ti controlla, te lo dico io. L'arcigay sono cavoli loro, a me non me ne frega niente. Basta che non abbiano a che fare con me. L'importante è che non abbiano rapporti e contatti con me, poi il resto contatti. Ma guarda, l'importante è che non rompano i coglioni durante in pubblico attraverso le varie manifestazioni che tutti quanti conosciamo, ma non mi fate cadere nella solita trappola, perché io poi professore, un'altra cosa, lo sai che ho ricevuto una telefonata l'altro giorno da questi qua dell'Arcigay che mi dicono che ti vogliono invitare a un convegno. Sì. Ah, io non ci vado perché assolutamente. Ma perché, scusa, un convegno, un dibattito, no, un dibattito. Ma andateci voi in mezzo ai froci, ma che mi importa a me? Non ho capito perché ce ne devo andare io. Io ma non, un dibattito. Non so, ma un dibattito se lo facciano tra di loro il dibattito e si dibattano quello che vogliono. Io ma scusami, professore, mi ha chiamato sulle leggi. Mi ha chiamato il direttore dell'Arcigay, il presidente, là come si chiama, il segretario, mi ha detto: guarda, gli mando una relazione scritta, gli mando. Ma scusa, ma perché non vuoi andare fisicamente? Che paura hai che te lo mettono in quel posto? No, guarda, mettere in quel posto è un po' complicato, anzi direi impossibile. Soltanto semplicemente io te fa schifo andare insieme all'Arcigay, questo no, è il punto. No, io ho una sorta di repulsione, repulsione. Ma come repulsione? Cioè, ma non si può. Ma dai, su, ma è incredibile. Ma è un dibattito pubblico, c'è un dibattito pubblico, se lo fanno loro, io non ho bisogno di fare i dibattiti pubblici. No, vogliono loro. Ma perché? Vogliono un mio parere su qualche cosa, sono a disposizione. Ma non sono, persone diverse da te. Ma perché mi dovete sfruguliare in questo modo? Voi sapete perfettamente che queste sono cose che mi fanno da sempre schifo. Vabbè, ma non si può. Non riesco ad essere diverso e basta. Ma non sono diversi questi qua, no? Non sono diversi. E che sono? Sono normali? Se la normalità è quella che tutti quanti conosciamo, certo che sono normali. Ma loro è anormalità. E vabbè, no, ma normali. Ho capito, professore. Però, se uno ti invita da una parte, uno non è che può dire non ci vado perché trovo repulsione, perché sembra che tu vai in mezzo agli animali. Sembra che uno ti ha invitato in mezzo agli animali. No, l'animale non mi fa mica schifo. Ma che stiamo a scherzare? E ti fa schifo no, più un gay che l'animale ti fa schifo. Ma non si può dire più un gay che l'animale. Ma che dai gay, l'animale perché mi deve fare schifo? E ti fa più schifo il gay che l'animale? Ma no, ma io non lo sopporto. Dai, peggio un gay che l'animale. Ma dai, ma l'animale va benissimo, l'animale va benissimo. E il gay perché l'animale non va bene? E il gay non va bene perché non va bene. Intendiamoci, sempre tenuto conto delle eventuali sue manifestazioni esibizionistiche di cui abbiamo più volte parlato, più volte, sì. gay pride eccetera. Poi del resto, se stanno a casa loro e si fanno i cazzi loro, a me non me ne frega niente. Ciao prof. C'è stata rivolta questa frase: le donne del PD sono arrivate qui soltanto perché capaci di fare pompini. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Ma l'animale va benissimo, l'animale. E il gay non va bene perché non va bene. Poi del resto, se stanno a casa loro e si fanno i cazzi loro, a me non me ne frega niente. L'ennesima tirata del professor Carlo Dormina, ospite qui alla Zanzara, di confronti. Beh, disgustoso. Del mondo omosessuale. Disgustoso, mamma mia. Se aveste detto queste cose di qualcuno dei tuoi magari parenti, cosa avresti detto? Ma me ne fotto io. Ma direi una persona così, tu brutta. Me ne fotto. Ha usato, mi stanno arrivando decine di messaggi sul telefonino. Decine di messaggi. Che pubblicherò nelle prossime ore. No. David? Ecco, appunto, calmi. Mi dispiacerebbe andare a fare in culo. Ecco, no, appunto. Guarda, Bughini, mi dispiace per te. Ma è stato davvero vergognoso. In esclusiva per Radio 24, David Parenzo rincorre davanti al Parlamento l'uomo con le sopracciglia molto molto definite. No, davanti al Parlamento, no. Beh sì, vicino al Parlamento però. No, in un ristorante giapponese. Ma dove questo qua? Vicino al Parlamento? Dentro il video che ho girato, questa esclusiva che sì, regaliamo. Sì, d'accordo, però non la fare lunga. Dov'era sto posto? Ma non dico il nome perché sennò siamo una marchetta al ristorante. No, ma dov'era? In che quartiere? Ah, davanti un ristorante giapponese nella zona della camera. Ma che dentro? Dentro. Ma io che ho detto? Ho detto dentro. Vicino alla camera, ho detto. Dentro il ristorante. Vabbè. Vicino alla camera, ristorante giapponese, questa è la scena. Parenzo riconosce, ma d'altra parte con quelle sopracciglia, come se le è fatte, come se le è definite, non è molto complicato, il mitico Sorial. Sorial o Sorial, come diavolo si chiama, deputato 5 Stelle che ha dato del boia a Napolitano, innescando poi tutte le polemiche di questi giorni, eccetera, eccetera. Sentite questa vicenda, questa rincorsa, questo dibattito, soprattutto con chi si intromette, che è una delle, non so chi, una delle persone che accompagna Sorial, forse sì, la sua ufficio stampa, non credo, perché questi qua non sono ufficio stampa, una delle sue collaboratrici, che addirittura insulta Parenzo, cosa non nuova peraltro. No, no. Aspettando il deputato Grillino. Eccolo! Tu sei il Parenzo? Sì, esatto. Quello che mi ha dato il coglione in diretta. Bravo. Di 24, bravo, sì, bravo. Quello, bravo, che mi ha dato il coglione volevo in diretta. Solo che... Giusto? Io? Sì. Sì. Allora, allora, certo. Perché non allora, è un giornalista lei, è un imbecille. La questione è molto semplice, cara. Parenzo lo stava aspettando davanti al bagno del ristorante, e quello si era rifugiato in bagno, La questione era quella di capire perché l'onorevole ha dato del boia a Napolitano. Lei è un giornalista di partito, punto. No, giornalista di partito io? Sì. Se non cambia chiamiamo i vigili, dico sì, solo questo. Il reato sarebbe? Vilipendio al... No, non è vilipendio, sono che sta dando fastidio. Sta dando fastidio, imbecille e giornalista di partito. Così lo chiama una gentile signorina che accompagna Sorial. La scena continua. Smetti di fare le provocazioni come sei capace te di fare, sei riconosciuto per questo. Però se vai a vederti la conferenza stampa, comprendi tutto. E non c'è bisogno neanche di fare le domande. Se hai un po' di. Allora, te mi fai delle domande senza averla vista, questa dimostra che non hai guardato la conferenza stampa, ti sei limitato alla disinformazione dei giornali. Vatti a vedere la conferenza stampa, no, poi ci rivediamo qua. Vatti a vedere la conferenza stampa. Dai, vedi che sei anche carino, simpatico. Vatti a vedere la conferenza stampa e capisci il ragionamento. D'accordo. Basta. Parenzo gli aveva dato del coglione, sentite Parenzo. Sorial è il nome di un balsamo, tra l'altro. Vabbè, dillo, secondo te è un coglione, dillo. Solo. Secondo me è un coglione all'ennesima potenza. Va incriminato perché secondo alcuni addirittura dai che vilipendio al capo dello Stato. Ma perché poi gli hai chiesto scusa? Gli hai chiesto pure scusa. Senti, tu chiedi scusa a tutti. Basta che ti trovi uno davanti, scusami per averti dato del coglione. No, basta che mi faccia una dichiarazione intelligente. Dai, su. No, tu mi hai dato un sacco di parole, ho sentito in diretta, ma non c'è problema. Ho detto semplicemente coglione per la questione che avevi. Va benissimo, allora ascoltati la conferenza stampa, posso chiedere scusa per l'espressione che ho usato alla radio. Le volevo chiedere semplicemente conto. Posso mangiare? Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nubifragio a Roma, allagamenti, strade chiuse, un quartiere sott'acqua, gente sui tetti, una collina frana su alcune baracche, in salvo 6 nomadi. Tutto il centro nord colpito dall'ondata di maltempo, paura a Pisa per la piena dell'Arno, 1000 persone sfollate, crollata a Volterra parte delle mura medievali. Preoccupato per il Parlamento, non per me, dice Napolitano, dopo il caos a Montecitorio, Grillo accarezzate i partiti, tanto sono morti, Boldrini vada via. La legge elettorale supera lo scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità, l'iter riprende l'11 febbraio, Renzi bene così, avanti tutta. Letta sul caso Mastrapasqua, presto una legge per riformare la governance dell'INPS, sui 5 Stelle tolleranza eccessiva, solidarietà al capo dello Stato. A dicembre frena la disoccupazione la prima volta da giugno, ma resta il dramma di quella giovanile, in un anno 100.000 occupati in meno. Non torno in Italia, dice Amanda Knox, dopo la nuova condanna per l'omicidio di Meredith, giallo sulla tentata fuga di Sollecito in Austria. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Tiè, Parenzo, beccati questa, senti questa notizia, senti questa notizia. Rom gettano i cani sotto le auto, poi chiedono denaro, un orrore. Cioè, praticamente a Roma succede parte che alcuni campi nomadi oggi sono stati allagati, ma questo è un altro discorso. Succede che questi qua, questi qua prendono dei, dei cani che vivono dentro questi insediamenti, li gettano di proposito dentro, sotto le vetture in corsa nelle strade, poi bloccano la macchina dicendo: adesso mi dai i soldi perché mi hai ammazzato il cane. Non ho capito, mi stai dicendo questa cosa orribile che qualcuno fa per dimostrare cosa? Rom gettano i cani sotto le auto, cioè, poi chiedono denaro. Per dimostrare la, la, come dire, la crudeltà del popolo rom, questo stai dicendo? È una notizia. Cioè, il fatto che un qualche imbecille... Aspetta un attimo, fammi sentire Stefano da Bergamo. Questo atto di teppistaggio... Stefano da Bergamo. Qualifica un popolo. Non ho detto questo, Stefano da Bergamo. Pronto? Dimmi. Salve, vorrei dire una cosa. La, prego. La Confindustria si lamenta sempre della crisi. Io non so però come trova i soldi per pagare voi due, che potrebbe tranquillamente pagare qualche cassa integrata a fare il vostro lavoro meglio di voi. Oh, questa è bellissima, questa è molto molto bella, Stefano. Cioè, al posto nostro dovrebbe metterci qualche cassa integrato. Di quale industria, di quale fabbrica, di grazia? Ma una qualunque. Una se qualunque. Il vostro giornalismo basta... Sul vostro giornalismo una qualunque. Una qualunque. Bene, Stefano, allora perché lei perde tempo ad ascoltare, a restare in linea e poi a intervenire? Per quale motivo? Perché spero che la Confindustria ascolti. Ah, lei spera che la Confindustria ascolti questo appello? Mi dispiace, ma casca male, secondo me. Non vorrei dire niente, per carità. Poi lei può fare tutte le proteste che vuole, mandare lettere. Noi siamo molto contenti. La sua protesta verrà ascoltata anche ai piani molto alti, Stefano. Molto, molto alti. Chissà, ma non ha nulla da dire così, con questa voce niente. Così. No, solo questo. Le basta questo. Ma lei che mestiere fa, Stefano? Adesso sono pensionato. È pensionato, cioè non c'è un cazzo da fare. Va bene, ma benissimo. Uno può passare il tempo a sperare che Confindustria ci cacci, ma per carità, è legittimo, eh? È legittimo. Sta bene comunque. Buonasera, sta bene, sì, no, perché la sento un po' abbattuto. La voce è un po' giù, No? Beh, oddio, sa. Ai pensionati danno meno di quello che danno a Parenzo, che va in giro col telefonino a comprare il formaggio e intanto viene pagato. Sì, questo ad alcuni pensionati è vero, però questo se la vi, come dire, no? Se la vi. Ma non è che vado in giro col formaggio. Se la vi, se la vi. È un mondo così ingiusto, Stefano. Così ma cosa ingiusto. C'entra? Ha ragione, con delle magari. Grandissime disparità. Grandi ma disparità. Non è che. Ma perché gli alimenti no, ma è la giusto, rabbia? È giusto, è un mondo ingiusto, è un mondo ingiusto. Io un mondo cane, ti ricordi? Sono solidale con il pensionato. Sì, che sì, vabbè, poco. Tu sei solidale quello che ti insulta, che ti dice che dovresti essere caccia, tu sei solidale solo perché è pensionato. Ci troviamo, cari ascoltatori della Zanzara, popolo della radio, a Civita Castellana, provincia di Viterbo, Alto Lazio, la città natale del belloccio grillino, il nuovo masaniello di Grillo, che si chiama Di Battista, Alessandro Di Battista. Ma c'è qualcosa da dire sul padre di Alessandro Di Battista, che si chiama Vittorio Di Battista, detto anche Littorio. Perché? Beh, perché costui, caro Parenzo, questa non la conoscevi, te la dico, te la riferisco, costui è un fascistone vero, un reduce di Salò, da quello che si legge. No. Ma nessuno ricorda che cosa? Beh, è passato da Di Pietro a Grillo, insomma, un movimentista, un collettivista, uno di quelli che vuole socializzare tutto, un fascista vero e proprio, tra l'altro lo dice in maniera esplicita. C'è un sansepolcrista. Ma adesso non lo so, non peggiorare le cose, non parla come mangia sempre. Sai chi sono i sansepolcristi? No, non mi interessa. La Repubblica Sociale Italiana. Già parliamo troppo complicato in alcune occasioni. Il manifesto di Sansepolcro. Non me ne frega niente. Niente, è uno niente. Che si dichiara apertamente fascista. Ma non lo diciamo così per prendere in giro, ognuno si può dichiarare come vuole. Beh, però no, certo, no. Alcune cose fanno pensare. Alcune Bene. Cose fanno pensare. E siamo andati a ripescare che cosa, caro David? Un'intervista che abbiamo fatto agli albori di questa zanzara, in pratica, di questa versione zanzaresca. Sì. Eravamo nel settembre del 2010 e il signor Di Battista si trovava alla convention di Fini a Mirabello, perché molti fascisti veri e propri hanno scelto Fini quando uscì. Ma c'ero già io all'epoca. Sì, infatti sentirai che alcune citazioni, anche alcuni riferimenti. Senti il padre di Di Battista alla Zanzara scatenato. Scusate, chi è il interlocutore? E il signor David Parenzo, giornalista, nonché... Buonasera, direttore. Ciao, Camerata. Parenzo, dove scrive? Oh, Parenzo... Posso chiamarla Camerata, vero? Non si offende? Quello senz'altro, assolutamente, anzi, devo dire che mi fa onore, anche perché sono rimasto, ho fatto un'indagine, recentemente pare che nei dati centrali siamo rimasti in 5. Onorato di essere chiamato Camerata, porto in giro la divisa del fascio. E allora, andando alla, alla quella grande manifestazione del cosiddetto popolo viola, anche lì regolarmente in divisa da fascista, cioè lei va in divisa da fascista alle manifestazioni del popolo viola? E non le dicono niente? No, perché qualcuno è rimasto prosico. Cioè, ma poi divisa da fascista che vuol dire, Camerata? Abito grigio, camicia nera, cravatta nera e distintivo del fascio. Parla il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio Di Battista, detto Littorio. A tutt'oggi un personaggio che fa casino al Consiglio Comunale, gridando, urlando contro provvedimenti vari, eccetera. Beh, sai, come direbbe Mughini, sai, caro Giuseppe, la mela non cade mai lontano dall'albero, e dai! Costretto a frequentare zecche radicali e gay, senti. No, io sono costretto, sì, per dibattermi per le mie idee e per quello che ritengo la libertà mia di fare le mie scelte e del prossimo. Sì. Sono costretto a frequentare le zecche, i quali, per esempio, qualche anno fa, quando ci fu da parte del centrodestra, e devo dire che era presente pure Gianfranco Fini, ci fu il Family Day famoso. Sì. Io, per mia reazione, sempre vestito molto da borghese, sì, e col distintivo del fascio, sono andato a fare la contromanifestazione organizzata dai radicali e dalle zecche. Mi sono trovato circondato da zecche, da radicali, da gay, da lesbiche, che non mi hanno suscitato. Ho capito, ma lei da iperfascista è andato a frequentare queste persone? Com'è possibile? Perché comunque sono persone che reclamano libertà. Berlusconi, senti che paragone fa, perché poi a un certo punto era diventato Confini super anti-berlusconiano. Stiamo parlando del papà di Battista, nuovo idolo, nuovo Masaniello dei 5 Stelle. Il Tinto è il famoso, come dire, il conducator della Brianza. Cioè Berlusconi? Eh sì. Il Tinto, adesso allora, un altro soprannome, il Tinto. Ma guardi, io l'ho chiamato già Tinto Bass in occasione, perché io... Tinto Bass! Tinto Bass, no! Tinto Bass è bellino, Tinto Bass, avete sentito la voce di Telese, no? La voce del signor Telese di 3 anni fa. Vabbè, che ricordi, ragazzi. Abbiamo rispolverato il padre di Di Battista, che dice che il fascismo non è un regime. Sentite, padre di Di Battista. Poi non vuoi, è un gioco, adesso non mi rompete i coglioni, non possiamo mettere in mezzo i padri, eccetera. No, qui ma tutti, quale gioco? Tutti ma mettono padre... in mezzo tutti, dai, su, fattivi da politica attiva. Ha un blog. È super grillino, ma di che parliamo? Dai, non mi rompete no, le palle. Ma il padre mi pare che si sia fatto mettere in mezzo lui, che c'entra? Il fascismo è il contrario della libertà, no, Di no, Battista. No, Cruciani, se vuole possiamo parlare però una settimana. Il fascismo esatto, non esatto. È il regime. Se... Gli italiani hanno fame e voi avete tolto il pane agli italiani. Franco da Brescia, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Grazie, io sono contento che mi avete chiamato. Oh, ragazzi, però dire... non vorrei che Parenzo si dimenticasse la notizia che ho dato prima sui Rom. Vorrei che te la stampassi bene in fronte, caro Parenzo. No, allora, non voglio dire... l'orrore di Roma. Senti, no, perché l'orrore di Roma. Ma me la stai dicendo come se io fossi a favore di questo? I Rom gettano i cani sotto le auto e poi chiedono denaro. Cioè, prendano i cani, li buttano sotto le macchine, fermano i proprietari delle macchine e dicono: scusa, siccome l'hai investito, adesso mi devi dare i soldi. Quelli là, impauriti, ma alcuni di questi. Schifo, ma, no, ma no, cosa... ma lascia perdere. I tuoi amici Rom fanno questa roba qui a Roma. Basta. Ma fammi sentire Franco sciocco. da Brescia. Oh, io non li posso vedere. Io non li posso vedere. Che devo fare? Non li posso vedere. Lo devo ammettere, dire, non li posso vedere. Che devo fare? Io sono sincero, come tanti italiani, io non li posso vedere. Franco da Brescia, basta. Non è che sei sincero, sei un razzista. Ma quale razzista? Ma falla finita, dai, sincero. Su. Pronto? Forza, Franco. Dunque, grazie, mi avete chiamato. Che c'entra il razzismo con quelli che rubano, con quelli che buttano i cani sotto le macchine, con quelli che sono sozzi in mezzo alle strade, alla strada, con quelli che chiedono l'elemosina e rompono i coglioni, con quelli che non rispettano le regole, con quelli che hanno i campi privi di legalità? Ma quale razzismo? Dai, su, Franco da Brescia. Anche se fossero bianchi, anche se fossero italiani, me ne fotterei. Franco, no, da Brescia, scusami, dai, su. Uno che fa un crimine, non è che fa un crimine etnico. Ma chi lo dice questo? Ma chi sa? Ho capito, però uno vuole vedere. Bisogna essere veramente. Però quelli che so, che sono? Sono rom o non sono rom? Scusami. No, scusami, è come dire, c'era stato un episodio anni fa di qualche ragazzo che buttava i sassi dal cavalcavia. Quelli lì erano tutti di Bergamo. Dici, cazzo, i bergamaschi buttano i sassi dal cavalcavia? No, quattro stupidi ragazzotti. Ma che c'entra, mamma mia, guarda. Vabbè, Franco, dai, Franco. Buona serata. Allora, io l'anno scorso avevate fatto una trasmissione con un grande signore, molto robusto. Chi è? Ha detto, Ferrara, sì, ha detto se per caso Berlusconi avesse sì tolto l'IMU, lui l'avrebbe impacchettata e gliela sì, avrebbe era contrario, rimandata. Era contrario all'eliminazione dell'IMU, ma anch'io ero contrario. Ecco, cioè, non però, mi dispiace che mi tolgono ecco i soldi, ma, sì, che non mi fanno pagare. Allora, detto questo, però non mi devono inculare dall'altra parte. Sì, sì, ma infatti è che hanno tolto l'IMU, ma hanno creato un casino, sia il PDL, io sono del PD. Ma non c'è dubbio, PD, è vero, assolutamente. Hanno, ma voi non avete mai parlato di questo casino. Ma, dai, ma che mai è una vita che parliamo di questo casino, ma Franco? Cosa su, che ma non parlate mai? Oh. Anche là, anche dal 16 qua, con tutte quelle persone che sono andate, vecchietti di 80 anni, a fare le code. Ma chi l'ha detto? Ma ne abbiamo parlato, ma che dobbiamo. Ma rispetto per chi? Il rispetto per quelle persone che sono andate. Per l'IMU. Per l'IMU. Sì, e poi dopo l'altra cosa. No, che sono andati. La cosa vergognosa sono state alcune file che si sono creati, che si sono create a Varese, per esempio, di cittadini che non devono pagare, si devono solo informare. Qui si è ribaltato Cusani, il rapporto. Io, è lo Stato scorso, che deve dire ai cittadini quanto devono pagare. Non sono i cittadini che devono chiedere allo Stato, e questa è la vergogna. L'anno scorso io pagai, io e mia moglie, 70 euro di IMU in due. Vabbè, allora? Adesso abbiamo pagato 50 euro. Dov'è l'IMU che mi hanno tolto? E ho già vabbè pagato di più delle tasse che dovevo pagare. Bene, grazie. Pierluigi, no, mi scusi un attimo ancora. Che vuole così, ancora, eh? Franco, su. No, dato che prima parlava molto bene così di Grillini. Ma io, per me Grillini bene, insomma, dipende. È come se fosse una donna matura in astinenza di masturbazione. Cioè, no, mi spieghi bene sta cosa, perché non è male. No, cioè, no. Il Grillini è come una donna matura in astinenza di masturbazione, perché non gli vanno mai bene niente. Ah, ho capito, non gli va mai bene e niente. E una donna matura che non gli va bene mai niente, e quali sono i grillini? Va bene, Pierluigi da Imperia. Buonasera, da approfondire Cruciani questa metafora, Pierluigi. Cruciani? Sì, dimmi. Tanto saluto voi, grandissima coppia di testicoli che tutte le sere ci fa incazzare e divertire. Detto questo, l'argomento era il pompino, se non sbaglio, questa sera. Ma non era solo il pompino, se lei vuole dire che è solo il pompino, va bene, ma faccia pure, non è mica un problema. Certo, si parlava di questo inizio trasmissione. Allora? No, dicevo, questa Moretti che si è così scandalizzata, che parla con questa voce fastidiosa, con questa bocca a culo di gallina, cosa c'è di così scandaloso? Adesso che c'entra che parla con la bocca a culo di gallina? Adesso lei me lo deve spiegare. È una persona fastidiosa. A lei dà fastidio la Moretti, vabbè, a lei dà fastidio la Moretti, esatto, va, abbiamo sì, capito. Proprio. È bugiarda, è palesemente bugiarda, sta benissimo che è un pompino, non c'è niente di male a dire la parola pompino, e l'insulto che le è stato rivolto non è poi così grave, insomma, a quelli del PDL appunto l'abbiamo rivolto per anni. Quindi. No, ma dicevo, secondo lei, onestamente, analizzi la situazione, quando per esempio, non so, facevano le larghe intese Boccia e la Di Girolamo, sì, ma secondo voi... Nel momento della passione più feroce che si chiudevano in qualche bagno del Senato, del Parlamento a trombare. Ecco la cazzata. Ma tu ti rendi conto? Trombano in Parlamento, ci trombano fuori dal Parlamento e trombano, come dice, fanno bene, è una cosa divertente. No, però scusi Pierluigi, io non capisco. Questa persona qui è disturbata. Lei però è, oltre che disturbato, cioè cerca di fare ironia ovviamente su una cosa. Soprattutto trombato, soprattutto. Io voglio dire una cosa, ma cosa... Politica che ci tromba regolarmente. Lei è super grillino? Lei è super grillino? Molto grillino. E beh, molto grillino, Beh, grillino. Diciamo che si capiva abbastanza. Ora, cosa c'entra quello che fanno? Come lei, Cruciani, abbiamo votato lo stesso partito. Beh, questo mi preoccupa un po'. Questo mi preoccupa. Questo mi preoccupa. Io non mi faccio nessuna domanda perché ognuno di noi non è quello che vota, avete capito? Qualche domanda. Vabbè. Senta, però al di là degli scherzi eccetera, era il caso di andare a finire in, in forse in tribunale perché poi avete presentato sta denuncia, adesso quello è indagato. Insomma, non era il caso di fare sì una denuncia politica. Questo ha detto quello che ha detto, se l'ha detto, perché poi lui nega, dice di aver parlato di sesso orale, la cosa si complica abbastanza perché non è che se uno deve attaccare delle persone non è che parla di sesso orale. Però al di là del fatto giusto o no andare a fare la denuncia, lui ha esattamente pronunciato quella parola o ha parlato di sesso orale? Guardi, io non ho mai firmato una querela né denunciato nessuno. Se l'ho fatto è perché io ero un metro da lui e ho sentito esattamente quella parola e credo che ci siano dei limiti che quando si superano, dopo si va incontro alle conseguenze. Ecco. Cioè, voi donne del PD siete qui solo perché brave a fare i pompini, questo ha detto. Ma perché oggi lui dice vabbè, e poi alla fine è quello che pensano tutti gli italiani. Sì, cioè, probabilmente lui l'ha detto proprio perché pensa questa cosa qui. Ma questo non fa di quelle affermazioni una cosa meno grave, ecco. No, ma cioè, io non voglio dire che è meno grave, adesso ovviamente noi ci scherziamo sopra, però forse sì, di fronte a certe cose è il caso di, cioè non lo so, cioè, anche perché come si fa a provare una cosa del genere? È vero, ci sono i testimoni, si va a finire in tribunale, quello dice era una metafora, cioè lei si aspetta veramente che cosa? Siccome lui non chiede scusa, addirittura dice che è quello che pensano tutti gli italiani, cioè, si aspetta che un risarcimento, che cosa? Ma guardi, personalmente già il fatto che insomma, lui non chieda scusa mi dispiace sinceramente, perché lui ha detto quelle frasi, tra l'altro l'ha ribadito per 2 giorni e poi adesso è tornato indietro, ma va bene. Cioè l'ha ribadito per 2 giorni, perché dopo averle pronunciate per 2 giorni è andato in giro a dire le stesse cose? Ha avuto delle dichiarazioni sui giornali, insomma. Quindi sarebbe bastato anche che lui fosse venuto da noi anche oggi a chiedere scusa, a cercare di chiarirsi. Non l'ha fatto perché non lo ritiene opportuno a questo punto, però insomma non è che uno può fare. Tra l'altro era seduta finita, era anche finito tutta la bagarre, è proprio rientrato per comunicarci questo pensiero. Ah, addirittura, cioè è proprio venuto apposta per dirvelo, cioè ha puntato proprio voi, non è che lo diceva, perché lui dice anche io non lo dico a tutti, diciamo, no? Ma lui ha detto i maschi del PD, gli uomini sono qui perché sono dei collusi, le donne sono qui perché cioè riferito a quelle proprio del PD. Sì. Del PD, capito Parenzo? Tu sei d'accordo col fatto che si vada a finire in tribunale? Io per esempio non c'è ombra di dubbio, hanno fatto benissimo, sono state insultate da questo manipolo di personaggi, è giusto che li no, in questo caso così. Da uno in questo, ma è vero che vi ha fatto anche il, come dire, il dito medio, ha alzato pure il dito medio? È uscito facendo il dito medio, tradendo le sue origini da lord inglese. Cioè, no, io vorrei chiedere di più però, sì. Ma non pensa, ormai frequentandoli da 8 mesi e passa, questi qui che sono un po', come dire, l'epifenomeno della degenerazione della democrazia alla fine, questi qui. Ma che hai detto? Scusa, traduci un attimo per la gente normale, scusa. Un parlo come Vendola, sono l'epifenomeno della degenerazione. Ma io perché devo sopportare tutto questo ogni sera? Parla come mai. Allora, la traduzione è questa. Lei li considera degli squadristi? Ecco. Non tutti, cioè, però l'altro giorno si sono comportati da squadraccia. Da squadraccia, ma quando sono venuti l'altra sera, sia quando hanno occupato i banchi del governo che quando ci hanno tra virgolette assediato in commissione giustizia e poi in affari costituzionali. Sì, da squadraccia, però io devo dire una cosa, quando spesso, sicuramente non è lei la protagonista, da varie parti hanno chiamato le ragazze vicino a Berlusconi, sì, anche quelle che sono in Parlamento, mignotte, prostitute, allusioni varie, non è che ci sia stata questa grande, no, questa gran cassa di difesa da questo. Questo è vero o no? Adesso invece questo è sicuramente un errore che è stato fatto negli anni scorsi, fino in realtà, dobbiamo dire, fino al 2011, fino a se non era quando, però molto spesso c'è stato un po' di timidezza riguardo a questi insulti. E visto che siamo tutti uguali, visto che insomma, il leitmotiv dei 5 Stelle, che PD e PDL, o quello che era PDL, insomma, sono la stessa cosa, e di conseguenza se le donne del PDL sono lì per quello, anche le donne del PD sono lì per quello, no? Mi sembra abbastanza logico. E lì c'è un problema anche del fatto che evidentemente abbiamo avuto, o almeno si è visto, una reazione timida a volte. Cioè nei confronti delle donne del PDL accusate di essere lì solamente per aver fatto sesso con Berlusconi. Sì, anche se a dire la verità nessuno mai del Partito Democratico ha fatto questa affermazione. Beh, insomma, tanto meno in se vuole parlamentare. No, quello è vero, però se vuole le trovo un sacco di frasi. Però è giusto che lei dice adesso, qualche volta anche noi siamo state timide quando accusavano le donne del PDL. In passato sì. Comunque, guarda, diciamo che su Mara Carfagna, ad esempio, per lungo tempo si è detto qualunque cosa, purtroppo. Beh, sì, la Guzzanti in particolare. No? O comunque si è spesso. Però io voglio capire come giudica lei i grilli da un punto di vista proprio culturale. Sono la degenerazione della politica, questi qui. Non credo, guardi, soprattutto diciamo che ci sono dei momenti. Questi tre giorni fa sono state sicuramente una degenerazione della politica. Non sono sempre così, né i deputati né tantomeno i loro elettori. È come dire quando a me mi arrivano mail di insulti tutti i giorni con scritto qualunque cosa. Non credo che tutti gli elettori dei 5 Stelle siano quella cosa lì. Credo che siano un po' di esaltati o di persone che insomma hanno qualche problema. Per ecco, questo De Rosa ha qualche problema secondo lei? Beh, mi passa il pomeriggio a cercare su Facebook o su Twitter il profilo di un deputato PD che non mi... per mandare un messaggio di insulti senza che io abbia fatto tra l'altro niente per meritare. Cioè che cos'è che ha fatto, scusi? No, niente, infatti per questo, però lo mandano a tutti, quindi è una cosa. Cioè ha passato il pomeriggio a cercare il suo profilo. No, per... dico, chi passa il pomeriggio a fare queste cose qua evidentemente ha qualche problema, ma il problema è che non si condannano queste cose. Cioè se quando succedono queste cose, l'importante è che la maggioranza delle persone che sta attorno, perché può capitare a tutti di avere un cretino. Lei dice gli altri anzi lo coprono, cioè nessuno dice. È il silenzio che c'è attorno, che si dica sono ragazzi, sono pochi, sono sicuramente pochi. Ma questo non giustifica il fatto di stare zitti davanti a questi attacchi. Un attimo solo, torniamo. La Zanzara. Vado a stare svegli per amare. Sei ancora a casa? Io sono contento, caro Parenzo, che tutta questa storia sia stato probabilmente rivolto alle deputate del Partito Democratico, sesso orale, quello che vogliamo, però ce n'era bisogno, secondo me, in qualche modo, ce n'era bisogno. E trovo esagerato, lo dico... ha fatto oggi o ieri quello che era una battuta eccezionale che sta facendo il giro del web. Lei lo sa che domani questa sua risposta a De Rosa, onorevole Pini, ho avuto 7100 preferenze, mi fa male la mascella, sarà praticamente su tutti i giornali, perché come dire, è considerata dal mondo della comunicazione, da noi eccetera, come una risposta, la migliore risposta, forse ancora più densa, ancora più forte, ancora più importante della querela che avete presentato. Ne è consapevole lei o no? Sì, ho questo dubbio. Sì. Ha questo dubbio. Comunque, è meglio è meglio rispondere così che andare in tribunale. Cioè, perché adesso io insisto su questa cosa qua, il tribunale, la querela, il giudice, le cose, quelle testimonianze, arriva De Rosa e dici non ho detto questo e voi dite questo. Cioè, non è una roba un po' penosa anche il tribunale, o no? Guardi, è molto penoso, però è anche penoso insomma la situazione che si è creata. Io non, mi dispiace, però non credo che fosse la cosa giusta da fare. Cioè De Rosa è indagato, gli avvisi di garanzia, arrivano i carabinieri e poi il giudice. Ma se uno offende. Ma sì, d'accordo, però uno offende. Ha detto una frase in Parlamento offensiva, certo, non c'è dubbio, offensiva. Ma non è che se a te piace probabilmente farti dare qualunque cosa, però ma noi dovremmo stare in tribunale ogni giorno, allora David, dai, no, ma lascia stare, però se uno si sente offeso ha strumenti per difendersi. Le donne, specie le donne in politica, ne abbiamo una testimonianza della deputata che è con noi stasera, ha fatto una battuta che, come tu hai detto, che è straordinaria, che è lapidaria, che è definitiva, certo, ma non c'è dubbio, molto meglio delle cose. Dopodiché il signorotto Grillino, per aver detto questa cosa, abbasserà la cresta e i suoi 12.000, 2.000, adesso non so più quanto, 2.500 euro prende, perché il resto non so a chi lo dà, come tutti i grillini, li tirerà fuori e li darà alle deputate, le quali deputate poi decideranno a chi dare darà in beneficenza quei soldi. Abbiamo già parlato ieri, eventualmente. Sì. Cioè con chi? A chi li date? Ma ci sono o i centri antiviolenza o insomma, ci sono molte associazioni e centri che hanno bisogno di... Ma le faccio ascoltare, se già non le ascoltate, le frasi di De Rosa su questa roba qua, le frasi di oggi, interpellato alla Camera, De Rosa, che dice: beh, ma insomma, alla fine è quello che pensano tutti gli italiani. Ma poi perché uno si deve, come dire, attribuire il senso comune degli italiani o quello che penso? E questo mi fa diventare pazzo a me. Cioè, io non difendo nessuno, non attacco nessuno per principio, ma perché uno deve dire così la pensano tutti gli italiani? Ma chi te l'ha detto? Cioè, io non è che guardo un deputato donna e dico: questa qua è in Parlamento, però perché fa i pompini? No, cioè, penso che sia in Parlamento perché qualcuno l'ha scelta, perché l'ha scelta magari un segretario e poi qualche cittadino ha messo la X sulla scheda del partito. De Rosa: io ho detto che in Parlamento tanti entrano o perché conoscono qualcuno o perché fanno assessorare con qualcuno. E mi dite se qualche italiano non lo pensa questo. Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito. Io non mi sono mai rivolto alle deputate del PD, ho subito degli insulti e un'aggressione dai deputati del PD che erano rimasti in commissione. Il problema è che è due giorni che sento parlare in TV di cose che non sanno, cioè riportano solamente quello che hanno detto alcune deputate del PD, che nascondendosi dietro al femminismo cercano di creare una battaglia di classe tra uomini e donne che non c'è. Il femminismo, eccetera eccetera. Dunque lei dice anche che oltre a questa roba qui c'è anche un dito medio, giusto? Ci può ripetere questa cosa? Com'è avvenuta questa cosa del dito medio? Questo è quando l'hanno trascinato fuori i commessi, lui ha salutato alzando il dito medio della mano destra. Rivolto verso chi? Chi stava dietro, quindi tutti i parlamentari del Partito Democratico che erano rimasti. Poi, ma che belle persone. Poi qualcuno, quando, cioè, ci sono certe persone che quando si come dire, quando dicono delle stupidaggini, però sono stato provocato, c'è stata una violenza precedente, cos'è che ha detto? È stato aggredito da chi, Pini? Da chi sarebbe stato aggredito? Guardi, io non lo so, so solo che la cosa strana, perché se fosse stata all'interno di una serie di urla e va bene, è che lui è uscito e è rientrato con questo casco da motociclista in mano e poi ha espresso le frasi che abbiamo, il suo pensiero. Sì. Quindi, per carità, c'era una situazione assurda, abbiamo avuto 34 ore di interventi dei deputati 5 Stelle, c'è stato l'assalto alla presidenza della Camera, c'è stato l'assalto alle commissioni, c'è stato anche lì l'interruzione della commissione a urla, ma però insomma non è avvenuto lì, è avvenuto due minuti dopo, lui è rientrato per, cioè lui voleva puntualizzare questa cosa volontariamente, cioè proprio è venuto di proposito per dire quella frase lì, che poi vabbè è apparso così, perché se fosse, se posso dire, se fosse stato all'interno di tutto il resto di insomma, di bagarre che c'è stata, non sarebbe neanche stato così forte, né probabilmente sarebbe arrivato in una denuncia, ma proprio il fatto è che è stato, come posso dire, fatto apposta, insomma, è stato detto con scienza e coscienza, quindi insomma poi ognuno si assume le proprie responsabilità, ecco, siamo tutti adulti vaccinati e soprattutto rappresentiamo le istituzioni, quindi insomma. Sì, no, poi adesso, insomma, lei ha paura di andare alla Camera? No, cioè non le fanno paura i grillini? Cioè, no, ma assolutamente non ha paura di aggressioni verbali? No, allora, siccome si parla di no. Va bene, grazie. Addio. Buona serata, grazie. Grazie. Saluti. Grazie. Well now, little mosquito, there must be. Salvo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Sì, Salvo, tolga il viva voce e parli però, perché altrimenti facciamo notte qui, eh. Salvo, dai. Però ci sono stato il cazzo. Vabbè, Pietro da Torino. Ciao Cruciani, ciao, ciao Parenzo. Dimmi. Senti una cosa, ma io dico, ma certi italiani sono proprio stupidi, ma da dove è uscito sto Di Battista? Ma chi è? E che ne chi so? È? Solo perché ha detto delle cose scontatissime, l'ho visto lì al servizio pubblico, quattro cazzate che ha detto lì. Cioè io non lo so veramente, siamo veramente un po', abbiamo quello che ci meritiamo. E poi un'altra cosa, tempo fa tu hai avuto in trasmissione, in collegamento, Paola Ferrari per l'aggressione, volevo fargli i complimenti per la grande aggressione che ha ricevuto da De Iene. Grazie Cruciani, ciao. Ma non ho capito niente, che vuoi dire complimenti, scusa? Fenomeno, vabbè niente, Marco da Modena. Pronto, buonasera. Ciao Marco. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Volevo chiedervi, vi ha mai chiamato in redazione una persona di etnia rom? Credo di no, perché da quando vi ascolto io praticamente tutte le sere, anche in replica, che non mi perdo alcune parti perché vado a lavorare. Non lo so, non mi ricordo, io non faccio distinzioni qui, magari qualcuno non ha detto che appartiene all'etnia rom, allora? Io sono una persona di etnia rom, sì. E volevo dirvi soltanto una cosa, che ci sono anche i rom di etnia italiana, sì. Quelli delle ex province italiane che sono Fiume. Sì, sì, vabbè. Dunque... Io sono fiumano, no, allora... Tu abiti in un campo rom? Abiti in un campo rom? No, assolutamente no. Io di quelli no. sto parlando, non è che parlo delle persone che abitano nelle case normali, che pagano la luce, che sono in regola, che non rubano, eccetera, eccetera, no? Però si dice rom, quando si dice rom si ma dice no, tutti. Ma io dico rom, quelli che vivono illegalmente, con illegalità, quelli che non pagano pagano questa, la luce, eccetera, eccetera. Questa è un'altra cosa, le bollette, io purtroppo, io... Che vivono di mendicando, eccetera, eccetera. Ma quelli lì non li sopportiamo neanche noi. Perché basta, ma io quello dice, parlo, non parlo di... Ecco, quelli lì quando si dice che si dicono rom, loro sono rom perché sono stati costretti nelle loro terre, da dove vengono loro, a vivere in quella maniera lì. Noi che siamo nati e cresciuti in Italia... Va bene, questo okay? Però non c'è bisogno adesso di specificarlo, di chiarire tutto, di fare dire no, noi non siamo... Benissimo, lei l'ha detto, non siamo tutti come quelli lì. Chiaro, poi... Poi niente, solo questo volevo, bene, grazie, dire Fabrizio da Roma, grazie ma... sotto le macchine. Va benissimo, allora. Fabrizio da Roma. Buonasera, pronto? Dimmi caro, dimmi. Buonasera, allora volevo interagire un attimo con Parenzo. Sì. Perché ho sentito prima che ha insomma definito l'intero Movimento 5 Stelle come la degenerazione della politica. No, questo sinceramente mi sembra allucinante nel momento... Come? Ha degli aspetti fortemente barbari e degenerativi. Scusi, certo. Ma poco prima lei ha fatto un intelligente intervento, voglio dire condivisibile intervento, nel momento in cui diceva il discorso dei cani buttati sotto la macchina da Roma, no? Per cui che non si può generalizzare. Allora, se c'è un imbecille del Movimento 5 Stelle, perché per me stanno da tutte le parti gli imbecilli, che fa una cavolata, ma perché lei deve appellare un intero movimento? Non è un intero movimento, è chi rappresenta il movimento, cioè chi li ha votati. Chi li ha votati? C'è Cruciani e ci sono altre persone per bene. Non parlo di noi che l'abbiamo votati, non parlo di noi. No, io dico proprio il Movimento 5 Stelle... agisce così come l'abbiamo conosciuto negli ultimi mesi, con le modalità barbare che abbiamo più volte documentato. Scusi, questo ma io secondo lei è più barbaro quello o è più barbaro il 7 miliardi e mezzo di euro le regalati alle banche ieri? Mi questo capire. È un altro discorso, abbiamo già detto ieri con il signor Cruciani delle cose perché no, scusi, sono mi due scusi. Cose diverse, abbiamo già detto scusi. L'altro giorno senza approfondire la questione che il decreto Banca Italia è sbagliato. Mi dica se posso parlare. Allora, vai Fabrizio, tra dai, persone, forza. Tra quelle persone ci stanno persone, tra cui per esempio Di Maio che avrà sentito da Santoro l'altra sera. Di Maio è bravo, sì, Di Maio è bravo. Vorrei soltanto sapere se ha sentito una sola parola da quella persona che non condivide. Ma Di Maio infatti, no, lasci perdere, uno può anche non condividere e non per questo è della reazione, è un conservatore, no, è un fascista. Io non condivido tante cose di Di Maio, ma Di Maio è un grandissimo parlamentare, un bravissimo parlamentare, bravissimo. Il migliore che hanno, il migliore in assoluto, punto. Non sto parlando di Di Maio. Che c'entra? Di Maio è una bravissima persona. Ed è una brava persona, è una persona con cui si può parlare. Gli altri fanno, gli altri, non tutti, alcuni che vediamo fanno caciara. Cioè non avrebbe mai detto boia a quell'altro, eccetera, eccetera. Poi va bene, noi ci divertiamo, anche se uno dice boia va bene lo stesso. Attenzione signore e signori. Grande annuncio, Parenzo, ritorna alla Zanzara. Beh sì, poi faremo una cosa anche pubblica in cui spiegheremo tutto, eccetera. Ritorno alla Zanzara. Attenzione, fermi. Me l'avete chiesto in tanti, perché eccetera, non è più quello di prima, manca qualcosa. Ma io non ho ceduto a niente, non è che abbia ceduto a qualcosa. Ci siamo parlati, gli ho spiegato alcune cose, lui in realtà non me l'ha spiegato, ho parlato soprattutto io. Vittorio! Ecco. Ma dove cazzo sei? In viaggio, dove sei? Sono in viaggio. Dove stai andando? A Prato, vabbè, è caduta la linea. È caduta la linea, vabbè. Massimo da Como, dai. Buonasera. Massimo, era Sgarbi, fra poco torna. Massimo. Buonasera. Dimmi. Sono un ascoltatore di Radio 24 dall'anno zero. Sì. Se ne frega magari. No, ma chi se ne frega? Sant'Almassi. Sì, però lei deve parlare. Io stasera non mi devo incazzare, devo stare calmo, sennò divento una bestia e sfascio tutto. Allora, Massimo, lei mi deve parlare con la minchia di cornetto di telefono attaccata alla bocca. Guardi, si calmi. No, io non mi calmo perché mi sono fatto due palle così con queste telefonate che non entrano. Ma io sono con un telefonino, non so cosa pretenda da me. Ottimo, no, è ottimo, non me la piglio con lei, in generale, ottimo. Ah, bene, grazie. Volevo solamente... Posso parlare? Sì, prego, siamo qui e pendiamo dalle sue labbra. Lei sostiene, no, di aver votato il 5 Stelle l'ultima volta. Sì, ma non è importante, perché lei si fissa su questo? No, no, so, è solo un dettaglio. No, io, per esempio, no, non mi sono fissato, è una premessa. È una premessa, lei sostiene, sì, certo, ho votato 5 Stelle, l'ho detto, poi nel segreto dell'urna non è che c'ho le foto, non è che ho fatto la foto della... No, ma mi piace crederle. Bene. Però il fuoco incrociato che vedo quasi strategico degli ultimi tempi tra lei e Parenzo, Mughini ieri per esempio, sta tenendo l'effetto contrario. Io per esempio, che non ho votato 5 Stelle e mai mi sarei sognato di farlo, mi sento in bisogno di proteggerlo, perché voi vedete un po' a senso, stanno andando a senso unico contro il Movimento 5 Stelle, quando il Movimento 5 Stelle lotta per gli italiani. Senta, allora, il fatto che lotti per gli italiani, lei è convinto che stia facendo bene, va benissimo, ma è meraviglioso, è stupendo se qualcuno crede in un movimento politico, in quello che sta facendo, ma perché attribuisce, e io le credo quando lei dice queste cose qui, perché invece attribuisce a noi una cosa strategica, una specie di complotto pianificato per andare contro i 5 Stelle? Ma se lei passasse, non glielo auguro, una giornata intera, una con me, una con Parenzo a Roma, si accorgerebbe che non c'è nulla di tutto questo. C'è tutta questa pianificazione. Adesso oggi ci inculiamo quelli dei 5 Stelle. Beh, adesso. No, ma proprio zero, no. Assoluto zero. Perché, per quanto riguarda la violenza, uno degli argomenti che si è stato tirato fuori, io ho trovato molto più violento l'occupazione del Palazzo di Giustizia di Milano da parte di tutti i deputati e senatori del PD. Lì non c'è stato, quello che è stato molto più intimidatorio e violento. Ma lì non c'è stata nessuna violenza. Lì non c'è stata nessuna violenza. Che vuol dire? C'è stata una manifestazione sugli scalini, mi ricordo, del tribunale, e poi sono entrati dentro e se ne sono andati. Non è successo nulla. In questo caso è successa l'occupazione di alcune aule parlamentari, non bisogna nemmeno esagerare. Non si sono potute tenere alcune riunioni, sono saltati sui banchi del governo. Io l'ho già detto, sono scene che si sono viste dal 49 in poi miliardi di volte alla Camera e al Senato. Per cui è quella che ha subito la deputata, e questo è antipatico. E per quanto riguarda la storia dei pompini, che è la cosa che più forse vi diverte, voglio dire, ci sono dei tanti nomi nel PDL di persone piazzate in posizioni politiche, quando si capisce benissimo che non hanno nessuna capacità politica. Cioè lei è d'accordo che molte donne, d'accordo che molte donne del PD e del PDL sono lì perché hanno fatto i pompini? Questo non lo posso sapere, perché non lo posso sapere, ma che ci sia stato da un rapporto preferenziale, cioè se uno mi leggo della matera che cioè lei sta dicendo euro, e poi viene piazzata in Europa e la paghiamo noi, la Minetti, cioè, l'abbiamo pagata. E dunque secondo lei la Minetti e la matera hanno fatto i pompini a Berlusconi? Lo dica chiaramente se lo pensa, lo dica, non lo so. Abbia il coraggio, ma non può fare l'allusione. Non avere il coraggio se non ero presente. Ma non fa, allora non faccia, allora perché fa l'allusione? Domenico da Chieti, buonasera. Buonasera, no, sentivo prima Parenzo nei panni dello storico. Ecco, io vi ascolto volentieri, insomma ci piace a tutti ascoltare le vostre cazzate. Però insomma fare tutta questa confusione, Repubblica Sociale, programma di Sanzepolcro, del 19. Parenzo. Sì, ma lasciamo perdere, ma è lui che si avventura. È lui che si avventura in queste cose ridicole. Domenico, lei che è fascista vero, perché mi sa che lei è fascista vero? No, non ho detto che coincidono con la Repubblica Sociale. Sei ignorante. Tutt'altro, dai, basta. Ho detto sei ignorante. Che i sansepolcristi avevano questo programma molto socialista. Ma non me ne frega niente, un attimo, fammi riprendere con Sgarbi che è tornato, vai Vittorio, dai. Eccolo. Oh, caro Vittorio. Come Dicevo sta? Che ero vengo da Forlì, dove ho inaugurato la mostra del Liberty, dovete andare a vedere, sto andando a Virus. Ah, vai a Virus da Porro, vai a Virus da Porro. Va a fare la tua solita cosa sull'arte, là. Parlo di Rembrandt questa sera. Ah, parli di Rembrandt questa sera? Rembrandt. Ma mi hanno detto che sei forte a fare sta cosa. Beh, è andato bene, sì, va bene. Va bene. Anche perché la cosa... semplice interna. Senti una cosa, Vittorio. No, ma fa di più, perché prenderà una foto di Berlusconi, questa con le rughe, e la metterà a confronto con lo stile di Rembrandt. Ma questo che ne sai, scusa? Come? Che ne sai? Beh, io faccio giornalista, mi informo, cerco di capire cosa succede. Informandosi, Parenzo mi ha stupito, sì. Ma addirittura fare così, vabbè, buono. Cioè, prenderà quella foto famosa dell'ultima intervista al Sunday Times, sì. Al Sunday Times, quella con tutte le rughe, sì. E da questo partirà per una lezione magistrale. Posso darvi una notizia? Dimmi, che caro. Alla fine di Radio Velva ho trovato molto migliorato Parenzo. Addirittura, so è peggiorato fatto. Io, naturalmente. Peggiorato. No, no, tu sei sempre lo stesso, sei... un po' più sgarbiano, è una aggressività molto... Grazie maestro, grazie maestro. Ma Parenzo invece sembra diventato quasi ragionevole, anche quando dice delle cose non condivisibili, ma le dice con una eleganza inusitata. Mamma mia, che incontro, che come dire, che entente cordial. Vediamo di spezzarla subito. Senti, sì, una cosa, diciamo. Ma questa roba dei pompini denunciata, ecco, da queste qua del Partito, beh, Democratico. Sulla materia posso darvi alcune informazioni notevoli. E lo so, infatti. Il tema riguarda ovviamente sempre Berlusconi. Sì. Berlusconi, come sapete, è sempre stato favorevole alla separazione delle carriere, sì, dei magistrati. Sì. Qui si è sbagliato, perché io doveva praticare la separazione delle carriere fra troia e ministro o deputata, invece, sì, ha confuso. Per lui non c'è separazione di carriere. La prostituta, sì, la donna che decide di stare con lui, sì, qualunque donna che entri nella sua orbita può essere degna di, sì, fare la parlamentare o la ministra, sì, e le ministre che gli hanno fatto danno sono quelle che non so che rapporto abbia avuto con lui, ma sono sicuramente la Carfagna e la Prestigiacomo, che hanno fatto la famosa legge per cui è stato condannato per il caso Rubi, che adesso è diventato Ter. No, però scusa, tu stai insinuando, scusa Vittorio, tu stai insinuando che le due persone, per esempio, che hai nominato abbiano avuto rapporti sessuali con Berlusconi? No, non lo so se l'abbiano avuti, ma voglio dire, sarebbe stato meglio che l'avessero avuti e non andassero in Parlamento. Per lui, se le avesse tenute coperte e non le avesse mandate a fare attività che non erano in grado di fare, avrebbe fatto separazione tra la funzione, sì, che noi chiamiamo del pompino, e, sì, la funzione pubblica o ministeriale, che poi invece le une possono fare l'una e l'altra cosa, è il tema di cui si parla, che può essere vero o non vero, visto che non c'eravamo in alcuni, sì, casi, e certamente. Ma scusa, vero, secondo te nel PDL nel caso... chi è che è andato in Parlamento di donne facendo, beh, i pompini? Certamente non in Parlamento, ma il caso riguarda la Minetti per superficie dichiarazione, sì, la Minetti è proprio il capro espiatorio e comunque il simbolo più forte, ma meglio lei che il Rotondi, che andò nel Sino Boccato la volta prima con Formigoni, per cui diciamo il pompino è metaforico, può farlo anche un maschio, sì, il maschio che diceva Fini, per esempio, certamente era applicato alla funzione con Aldirante, Casini con Forlani, cioè il tema del pompino non è reale. Beh, però il grillino lo intendeva in senso reale, sì, ma il grillino aveva però una cosa che lo salverà, cioè che nella vicenda dell'età, io ho fatto il Parlamento, sì, dal 92 al 2006, sì, nel 93 fu eliminata l'immunità parlamentare, sì, ma rimase come copertura delle parole l'insindacabilità, per cui la querela è inutile, perché si salverà per questo, civile si salverà per gli darà questo l'immunità, perché anche in maniera molto violenta, con me per la verità non valeva, cioè se dicevo una parolaccia era materia per farmi condannare, sì, quindi dici mi hai rotto le scatole, il Parlamento dice va bene, ma hai rotto le palle, quindi potrebbero recepire sul torno, ma nella sostanza è un reato d'opinione, quindi è coperto dal 68. Però io opino che tu abbia fatto pompini, per cui sei andato in Parlamento. Però ha detto una cosa così grave, al di là della questione giuridica, che come hai ragione, forse è coperta. Potrebbe essere coperta. Potrebbe, sì, essere coperta, ma ha detto una cosa così grave, oppure rivolta a quelle del PD, oppure beh, no? Ha detto una cosa che non riguarda quella del PD, ma riguarda tutte le parlamentari che sono legate al listino bloccato. Cioè ogni listino bloccato è un pompino, un è un pompino. Pompinaro o una pompinara. Cioè qualcuno che in quanto è vicino, per esempio Galan, sì, come potrebbe mai andare in Parlamento se non mettendosi in quella condizione? Cioè facendo un pompino a Berlusconi. Beh, è evidente, no? Non, come fa? Infatti lo vedi che sta dietro Berlusconi a dargli ragione. Cioè non... quando tu sei nelle mani di quello che stabilisce che tu sia eletto, sì, diventi, sì, pompinaro per forza. Però cioè, lui si rivolgeva, sì, alle donne in quanto pompinare nel senso, no, proprio tecnico del, sì, termine. Ma dicevo, il pompino nella realtà esiste, ma quello metaforico è identico. Cioè se tu trovi qualcuno, e lo, sì, vedi in televisione con il quagliariello prima epoca, sì, che aveva sempre ragione a Berlusconi, esercitava la pratica del pompino per via orale, no, ma non c'è dubbio, le parole, non c'è invece, dubbio. Capito? Poi il pompino forse materiale, quello meno grave, perché non c'è niente di male che uno abbia un rapporto con un leader e il leader per questo, cioè per esempio Chiodi, no? Chiodi, quello il governatore dell'Abruzzo, ecco, si è messo in croce, è una cosa quella è una cosa abbastanza grave, sì. Perché il reato che gli è sollevato per la stanza, 160 euro, è ridicolo. Io non ho, potrebbe prendere per istituto ogni presidente, certo. O ogni, ogni sì, una stanza matrimoniale, ridicolo, sì. Quello che vuole. Però 170 euro gli sono costati la credibilità familiare e il fatto che uno pensa, siccome quella lì, non per i 170 euro, ma perché era la sua amante, è diventata presidente della commissione. Però devo dire che quella ha le palle, perché a un certo punto in un'intervista al Fatto ha detto: beh, ma scusate, ma che volete da me? Mica l'adulterio è un reato. Cioè, il problema sì, è suo. No, il problema ha ragione. Però fa pensare che sia la ragione per cui è stata nominata. Per cui è stata nominata, non c'è il dubbio. Il meccanismo è sempre quello, cioè il tema del pompino è un tema centrale, perché anche se non c'è di fatto, è l'atteggiamento di subordinazione di uno a un capo. Infatti io sono il primo, come sempre, che l'ho usato. L'antipompinaro. Quando nella celebre trasmissione sì. contro Urbani, sì. non ero più ministro, sottosegretario, mi intervistò Ferrara e dissi che inginocchiata fra le gambe di Urbani, Ilari Benedetto, quindi fu il primo a evocarlo, ma anche in quel caso forse era metaforico, ma è poco importante. È la, il pompino è il massimo atto di subordinazione che può fare un uomo o una donna nei confronti di un uomo. Ma per esempio Toti se, anche lui è un pompinaro da questo beh, punto adesso, di vista. Poverino, voglio dire, la sua condizione potrebbe anche esserlo intenzionalmente, cioè diventi pompinaro anche se non lo vuoi fare. Ah, ho capito, quindi, cioè per forza è... con Berlusconi devi essere pompinaro per forza, questa è la tua conclusione. Con Berlusconi è il più fatidico di tutti, perché lui non ha stabilito la separazione delle carriere. Ah. Se uno è un suo dipendente, sì. è una sua amante, è una sua amica, diventa parlamentare. Questa è una tragedia. Cioè uno non diventa parlamentare perché ha un merito politico distinto. Sì. Infatti il migliore di tutti, l'unico che non è fatto Pompini, se non parzialmente, è stato Casini. Sì, che Casini sì. fino al 92 o 93, quando nacque Forza Italia, disse: io non voglio aderire a Forza Italia, voglio mantenere il controllo sì. di qualcosa che è mio. Cioè, li voglio io, non li voglio parlare. Comunque lo sai Parenzo, l'ultima su Sgarbi eccezionale che mi hanno raccontato nei dettagli, adesso sarebbe lunga anche, sì. È stata praticamente alcuni non l'hanno voluto a Prato a fare il direttore del museo Pecci, sì. un importante museo. Beh, lui è andato su tutte le furie, ha detto: ma non è possibile che tre persone, come sono questi tre ma non sono umanamente definibili. Cioè sono immagina se in una commissione per dare un premio a Sofia Loren ci mettessero Rosy Bindi e non so, cioè non sono persone che sono di un altro mondo, cioè non c'entrano niente. L'hanno ritenuto inadeguato perché dice: beh, ha troppi incarichi, non può essere presente. Forse su questo Parenzo hanno ragione o no? Parenzo? Ma sulla questione degli incarichi, sai, se uno riesce a dimostrare, a far bene il proprio lavoro ovunque va bene. Cioè se ti pagano per fare, a noi ad esempio, no? Ci pagano per fare la radio, per scrivere, poi se facciamo bene o male lo giudicherà il nostro padrone, chi ci paga, se no non ci paga. Quindi se fa bene il museo e riesce a fare bene anche altre cose, chi può pure non stare, può pure non stare tutti i giorni a Prato, dici tu, no? Ma quello certo, quello che vuol dire, scusa, perché uno non può fare, se il tuo committente giudica che tu fai bene 9 lavori e invece uno che ne sa fare bene soltanto uno, beh, povero. Ma poi si sa che quello è multitasking, fa tu 40.000 cose insieme, no Vittorio? Sì, cazzo, vabbè, ma poi dico lì una cosa veramente patetica, perché il presidente della Biennale Baratta non è competente ed è un buon presidente. È certo che non va alla Biennale tutti i giorni, ma in quel caso è proprio un gruppo di potere sì. che, nominato incredibilmente dal sindaco, ha stabilito l'ammissibilità o meno sulla base di, naturalmente non corrispondenti al bando, decisioni. Ma li hai mandati a fare in culo o no? Io non ho capito. Io ho fatto una conversazione meravigliosa indicando punto per punto che uno non ha mai scritto neanche un contestetto sì. sul muro. Sì. C'è gente che non sa cos'è l'arte, non sa nulla. Rosa. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Allora, qualcuno mi sta rompendo le palle per questa storia di Vittorio Di Battista, no? Ma che c'entra il padre? Ma ragazzi, la politica è fatta così. Vittorio Di Battista, il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio lo conosci, no? Alessandro Di Battista, questo super grillino adesso. Che è diventato una specie di leader ormai, di Masaniello, no? Cioè, ma a loro modo anche i grillini sono dei pompinari di Grillo? Nel senso che abbiamo detto prima. Nel caso loro, sono dei pupinari addormentati, nel senso che l'hanno fatto nel sonno in maniera ipnotica e inconsapevole. Sono ipnotizzati da lui, quindi non hanno nessun significato. Vabbè, comunque il padre si dichiara apertamente fascista. È uno che è stato, credo, nella Repubblica Sociale Italiana. Abbiamo ripescato una vecchia intervista addirittura alla Zanzara nel 2010, quando andò da Fini, perché molti ex fascisti che continuavano a chiamarsi tali anche, anche nel 2010 in realtà sono andati con Fini quando Fini lasciò Berlusconi. Risentiamo un pezzo quando dice: io giro con la camicia, vestito da fascista, con l'abito grigio, la camicia nera, il simbolo del fascio. E allora, andando alla quella grande manifestazione del cosiddetto popolo viola, anche lì regolarmente in divisa da fascista. Cioè, lei va in divisa da fascista alle manifestazioni del popolo viola? E non le dicono niente? No, perché qualcuno è rimasto così. Ma poi divisa da fascista che vuol dire, camerata? Abito grigio, camicia nera, cravatta nera e distintivo del fascio. Sono onorato di essere chiamato camerata, questo Vittorio Di Battista. Adesso si può parlare anche dei padri, è normale. Si è parlato della madre di Sgarbi, del padre di Sgarbi, dei figli di Sgarbi, ma non si può parlare dei genitori di Battista. E che cavolo, è su. Anche tu mi sei piaciuto nelle ultime settimane, sentivo delle cose. Questa qua, per esempio, che riguarda Napolitano, è interessante. Cioè l'impeachment? Cosa? No, l'impeachment, perché questa è una fregnaccia che non avrà nessuno svolgimento, non arriverà neanche al Parlamento. No, l'idea è che insistono sulla questione delle telefonate di Mancino, siccome Rina va letto, e oltre a essere minaccioso per Di Matteo, ha detto due cose: una molto legata al mio destino, cioè che Matteo Messina Denaro era implicato nell'affare dell'eolico, l'ha detto in maniera chiarissima. La seconda è che non sa neanche chi sia Mancino e non ha avuto nessun rapporto con lui. Se partiamo da questo, tutta questa costruzione intorno a Mancino insiste sul fatto che lui ha tentato pietosamente di ottenere dal povero quello che è morto, D'Ambrosio, e da Napolitano, di essere processato da Grasso. Se Grasso fra sei anni telefonerà al Presidente della Repubblica, essendo stato seconda carica dello Stato, non dovrà stupire. Quindi la richiesta era tra Caltanissetta che archivia, Palermo che prosegue l'inchiesta con Di Matteo e Grasso che è terzo, vorrei essere processato da Grasso. Fine. Questa cosa qua è diventata trattativa Stato-mafia. Io ho denunciato Borsellino, perché uno può essere fratello di chiunque, padre di chiunque, ma non si può permettere di dire che da vent'anni Napolitano è garante di una cosa che non c'è mai stata, e tantomeno della trattativa. Senti, lo sai che abbiamo, sai che abbiamo collegato uno di quelli che è il grande testimone, Massimo Ciancimino. Buonasera Massimo, ciao. Buonasera Cosciani. Ciao. Buonasera Parenzo, buonasera professore. Conosci Ciancimino Sgarbi? Bello, conosco, ne ho letto L'Impresa. Conoscevo bene il padre, io ho parlato molto con il padre. Sì. Sono stato col padre 5 ore in un albergo di Cortina, in una fase in cui era ancora libero, poco prima che lo arrestassero. E posso, l'ho detto 1000 volte, il figlio lo saprà, attestare che parlando con me, testimone Liana Lippi, mi ha parlato di tutto e di tutti, Andreotti, Fanfani, senza mai citare il nome né di Dell'Utri né di Berlusconi. Ogni costruzione relativa ai rapporti tra Ciancimino e Berlusconi e Dell'Utri non è stata in nessuna parola che mi abbia detto Ciancimino. Nessuno mi ha chiesto di fare le persone, evidentemente quello che dico io non è importante come quello che dicono altri. Senti Vittorio, però un'ultima cosa, confermo, poi ti lascio. Confermo, aveva incontrato il professor Sgarbi nell'estate del 90 a Cortina d'Ampezzo, del 90 o del 91. Senti Vittorio, ti voglio chiedere una cosa: in questo momento tu voteresti per Renzi o no? Sì, non voterei per Renzi, ma sostengo che Renzi deve vincere, che deve andare a votare subito. Vabbè, ma andresti a votare Renzi? Questa è la realtà. Adesso se io vado a votare è una cosa che è legata al mio temperamento fisico, cioè preferisco scopare con la Minetti che votare con Renzi, insomma, ecco, dovendo decidere ancora addirittura con la Minetti, dai su. No, per dire il caso di cui si parlava prima, cioè no, dico, preferisco quello che mi accade. Cioè se quel fine settimana esattamente mi è capitato una volta che ero non so dove, ma non so chi, avendo scelto delle due carriere, quella del mio piacere e quella del voto, non ho votato, per cui quello è ottimo, però certamente superati questi dati che sono nel tema della puntata, io generale credo che Renzi debba vincerà e debba andare a votare il più presto possibile, evitando di farsi stringere in una macchina diabolica con un sistema elettorale criminale come quello che lui stesso ha inventato con Berlusconi, che non ha le preferenze, ha uno sbarramento ridicolo in alto e in basso. Vero. Determina una follia. Il neo-renziano. L'unica norma da sostenere, io sono un grande amico di Farinetti, tra l'altro, quindi ho diversi collegamenti che sono legati a lui e sono amico suo, era amico suo, era presidente della provincia, non ho nessun problema a dire che mi sembra inevitabile, non che interessi a me, allora? Mi sembra che non ci sia antagonista. Allora, il problema di fondo è che in una legge elettorale come quella che hanno in mente, l'unica cosa che non hanno pensato è quella del vincolo di mandato. Basta eliminare quello, cioè chi sta da una parte, se vuole cambiare si dimette, fine. Per il resto, se io devo combattere per il 4% e arriverò solo al 3, che cazzo di performance farò? Non farò nulla. Quindi gli alleati che non arriveranno mai al 4 saranno completamente... Va bene, ne parleremo un'altra volta della legge elettorale. Ciao Vittorio, a presto, un abbraccio, ciao. Non ciao. Non lo sentiamo più. No, come no, resta lì, Massimo. Ma anche a te piace Renzi, dimmi la verità, in questo momento voteresti per Renzi, Massimo? No, in questo momento devo dire che non so neanche come si vota, per cui... Vabbè, ma come... di sapere come si vota. D'accordo, però... Come politico ti piace? Come politico ti piace o no? Come politico è un buon comunicatore, sicuramente un buon accentratore, però bisogna vedere quanto di vero, quanto di suo c'è in questo. Credo che il professor Garbi, conoscendo la politica dentro, sappia. Ma in questo momento, se dovessi scegliere, ne so, tra i Grillini che sono stati un tuo, non dico amore, però insomma li seguivi abbastanza, tra Grillo e Renzi chi sceglieresti? Ancora Grillo? Non lo so, sinceramente non lo sai, vabbè, comunque mi avvalgo. Ti avvali della possibilità di scelta, insomma, no? Senti, ma è successa una cosa clamorosa ieri anche in Italia. Ma dire questa cosa di Scarantino, scusa. È una cosa pazzesca, Scarantino. Cioè, ci voleva Santoro e Ruottolo per arrestare Scarantino. È una cosa incredibile. Credo che bisognerebbe nominare Dina Laurisella a capo della Catturandi, perché dove non trovano i latitanti le varie procure, Dina Laurisella mi sembra che fa un ottimo lavoro, ma a prescindere tutto, nel pieno rispetto della procura di Torino, una procura italiana che rispetto, credo che opportunismo, tempismo e modo di fare non fanno altro che alimentare già la gran confusione e i grandi dubbi. Ma secondo te è stato arrestato perché stava per dire qualcosa di interessante? Non lo so, dimmi. Non lo so, questo sinceramente non lo so. Avevo visto che il direttore Mulè lo aveva ben provocato su quelle che erano i suoi appunti a margine da chi erano scritti. Stava entrando un po' in crisi. Ora, collegare i due eventi sarebbe... complottista, non sono mai stato di queste tesi, però sicuramente certe cose potrebbero evitarsi proprio per non alimentare. Cioè l'arresto così spettacolare dopo la puntata così si poteva evitare. Io non credo che non si poteva arrestare dopo due giorni, un giorno, credo che era stata annunziata la presenza di Scarantino alla trasmissione di Santoro già da tempo, dallo stesso direttore Mentana, da altri. Sì. A volte la magistratura, anche per eccesso di zero, cade in queste situazioni che creano grandi equivoci, perché oggi il dubbio è quello. Lo hanno arrestato, credo che i blog sono impazziti su questo. Senti, ma secondo te è giusto mettere sotto accusa Napolitano o no? Ma io credo che... Come hanno fatto i Grillini? So che è una domanda politica, però sai, noi... Ma no, io non so. Sei un cittadino tu, hai dei problemi, però sei un cittadino. Io credo che il Napolitano debba rispondere, se ha da rispondere su quelle che sono le domande che un PM regolarmente gli vuole. E va bene, d'accordo, e su quello sappiamo che c'è tutta una procedura in corso. Lui non vuole andare, vedremo come finirà. Però... Ma lui non vuole andare, credo che non sia possibile. Credo che nessun test... Anche il Presidente della Repubblica può sottrarsi. Ma secondo te l'impeachment può scegliere nella sua facoltà luogo dove è data e per ascoltato. Ma sottrarsi credo mi aiuterà il professor Garbi, che è più ferrato di me, ma credo che non possa. Senti, ma io voglio chiederti una cosa, ma politicamente è giusto metterlo sotto accusa oppure no? Ma mi sembra un po' debole. Debole la cosa, debole. Sì, molto debole, molto debole. Ma scusami... Sì, volevo capire, ma perché Riina secondo te sta parlando adesso? Ma io ho una visione diversa da tutti quelli che sono un po' i mafiologi, attenti, gli addetti ai lavori. Io credo che Riina parli perché ha realmente paura. Ha paura? Paura di che? Paura che di morire. Di quello che è capitato a Provenzano. Se voi guardate un po' e fate... mente locale a quali sono state le date nel quale Riina ha incominciato le sue esternazioni ancora prima con l'abbadante, lo russo. C'ha paura di fare la fine di Provenzano? Sì, ha paura che qualcuno gli chiuda la bocca. A questo punto non fa altro che sto bene, sono un leone, sono fortissimo, godo di ottima salute. È quello che dice, è credibile? Ma quello che dice, non lo so se è credibile o no, credo che deve essere analizzato e deve essere sicuramente di tanti delitti si accusa, ma la cosa anomala è che un Riina che non ha mai parlato in processi dove certo. le pene edittali che rischiavano veramente alte, trovi in questo momento una loquacità eccessiva vista il personaggio. Ma scusa, perché Provenzano che ha fatto? Mica è stato ammazzato da qualcuno? Ma credo... Mica gli hanno chiuso la bocca? Per quanto sostiene anche Riina e per quanto sostengono anche i familiari, sicuramente ci sono delle luci e delle ombre su quello che è, diciamo, gli eventi clinici del Provenzano. Riina ha paura che lui possa fare la stessa fine. E dunque parlando vuole evitare... Parlando si sta assicurando che nessuno possa intervenire come potrebbero essere intervenire per zittire Provenzano. Ho capito, ho capito. Vabbè Massimo, ti ringrazio, a presto. E grazie a voi, ciao, arrivederla. Caro. Ciao, ciao. Danzano come zanzare. Massimo Ciancimino getta una nuova luce sul perché Riina sta parlando in carcere. Ma scusami, ti immagini la scenetta della polizia e del PM che sta indagando sul signor sul signor Scarantino dell'altro giorno? Accendono la televisione in questura. Sì, sì. E c'è, stanno ricercando questa persona, era ricercata da due mesi, dicono abbiamo perso le tracce. A un certo punto accendono la televisione, appuntate! Dice come appuntate? C'è sto guardando la televisione, appuntate, venga qua, appuntate! Alla televisione dice Scarantino! Scarantino! Ma come, due mesi che lo cerchiamo? Dove sta? A servizio pubblico! Andiamo, dai volanti, prendono, ma era stato annunciato, era stato annunciato. Ma ti rendi conto? Ma sì, ma vabbè, ma una follia, dai, Isidoro da Napoli, fammi sentire qualche ascoltatore, dai, Isidoro da Napoli. Isidoro? Pronto? Sì, dai, forza, Isidoro, su. Pronto? Isidoro! Mi senti? Sì. Pronto? Fabio da Venezia, va, vai a fare in culo, dai. Fabio da Venezia. No. Beh, quando ci vuole, ci vuole, scusa. No, sì, grande sì. Cruzade, grande Cruzade. Che cavolo, dai, forza. Sì, ciao Cruzade, ascoltami, volevo riallacciarmi al discorso e darti massima solidarietà per quanto riguarda il pensiero sui Rom, che sono veramente delle persone inqualificabili che non meritano assolutamente di vivere nella nostra società. A tal proposito, ma non tutti, quelli che vivono illegalmente, certo, quelli che buttano i cani sotto le macchine pretendendo poi di avere i soldi dagli automobilisti. Ti posso fare una domanda? Tu conosci un Rom che non vive illegalmente? Beh, quello che ha chiamato prima, per esempio, che di etnia Rom, sì. Ma io conosco un'attrice Rom bravissima che si chiama Diana Pavlovic. Ci sono, dai, su, non diciamo stupidaggini, ci sono. Io sto parlando di quelli, sto parlando di quelli che rubano il rame, che non pagano nulla, che vivono. Il nomadismo non è cioè non è che uno dice beh sono nomadi, sai, ma che vuol dire sono nomadi? Cioè non vuol dire nulla. Il nomadismo è la comunità europea che li protegge. È la comunità europea come... Ma a parte che non sono nomadi perché vivono nei campi. Sì, è nomade e quindi li protegge. Allora, va bene, un attimo solo. Giovanni dalla provincia di Pisa, grazie. Dobbiamo chiudere. Giovanni, provincia di Pisa. Buonasera. Dimmi, veloce, Giovanni, dai. Dunque, io volevo dire due parole sull'intellettuale della Zanzara, cioè sul Parenzo. Sì, però velocemente, Giovanni, dai. Sì, il quale interviene sempre, pontifica su tutto. Vabbè, è normale, è qui per questo, cioè non è che... Sì, sì, però stasera quando parlavate del padre di Battista, sì, ha detto una sciocchezza. Cioè? Quando ha parlato del manifesto... Ancora, basta, non mi interessa. Francesca da Bologna, veloce, Francesca. Buonasera. L'abbiamo già detto, Giovanni, già detto. Pronto? Questa cosa. Francesca. Pronto? Buonasera. Dimmi. Dai. Ecco, volevo dire che è straordinaria l'interpretazione che ha dato Sgarbi di questa vicenda, che vorrei dire anche che non se ne può più di questa associazione di donne belle con i pompini, perché credo che quelli li facciano meglio quelle brutte. Vabbè, questo è un altro discorso e ci apre, come dire, scenari più vasti. E rimandiamo tutti voi per questi scenari a lunedì. Ciao. Salve, vorrei dire una cosa. La Confindustria si lamenta sempre della crisi, io non so però come trova i soldi per pagare voi due, che potrebbe tranquillamente pagare qualche cassa integrata a fare il vostro lavoro meglio di voi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica a voce alta.